Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Clover, stufe e caldaie in giro per il mondo. Di Andrea Ferro. La storia di oggi sboccia e si sviluppa in provincia di Verona, a San Bonifacio, dove le coltivazioni di vino, mais e frumento si alternano ai capannoni delle aziende all'interno di un distretto produttivo che macina lavoro e opportunità. Protagonisti di questa storia sono una famiglia di imprenditori e un settore, quello del riscaldamento a biomassa, cioè un altro comparto che porta con successo il Made in Italy in giro per il mondo. È la trama di vita e di lavoro della famiglia Muraro e del marchio Clover, una solida realtà produttiva nel mondo di caldaie, stufe, cucine e caminetti. A raccontarcela è Mario Muraro, amministratore delegato dell'azienda che oggi occupa un'ottantina di dipendenti. La nostra è una storia lunga, 29 anni. Clover nasce nel 1991, praticamente da un'idea di mio padre che in precedenza aveva avuto già un'esperienza nel settore del riscaldamento a legna, avendo avuto un'altra azienda appunto prima di Clover. Poi nel 91 mi chiede, siccome 2-3 anni prima l'aveva venduta perché da solo non riusciva più a portare avanti l'azienda precedente, aveva bisogno di una mano. E io ancora andavo a scuola, nel 91, dopo 2 anni di stop, mi chiese se volessi iniziare questa nuova avventura con lui. Io premetto che sono cresciuto nel mondo delle caldaie a legna, nel mondo del riscaldamento a legna, proprio perché appunto mio padre aveva questa realtà precedente. Quindi con la sua esperienza mi sono sentito al sicuro, quindi ho detto, non ci ho pensato neanche 2 secondi, ho detto ok, partiamo con questa avventura. E se devo raccontare un po' i nostri inizi, devo dire la verità, sono stati molto difficili. Io ero giovane, avevo 20 anni, pensavo che avere un'azienda fosse facile e che subito si potesse raggiungere degli obiettivi molto interessanti. Però mi sono ricreduto immediatamente, perché i primi anni sono stati difficilissimi, perché non eravamo nessuno, non eravamo conosciuti e soprattutto perché dovevamo trovare la nostra strada. La strada inizialmente imboccata è risultata subito in salita, fatta di tratti accidentati e molto incerti. Per Clover, infatti, occorreva farsi largo all'interno di un mercato già piuttosto affollato. I primi prodotti sui quali punta l'azienda sono le caldaie e le termocucine a legna da collegarsi direttamente all'impianto di riscaldamento. Non c'erano sabati, non c'erano domeniche e mi ricordo i primi anni costruivamo pochissimi prodotti e poi li caricavamo su un camioncino e andavamo a fare la cosiddetta tentata vendita, ossia si passava dai rivenditori, prima della nostra zona e dopo sempre più lontani. Abbiamo cominciato dal Veneto e poi ci siamo spostati verso il centro sud Italia, dove questi prodotti, devo dire la verità, avevano un mercato più importante. Quindi si faceva questa tentata vendita, si faceva vedere il prodotto al rivenditore, qualcuno ti diceva sì, mi piace, però sono già coperto, ho già un'altra azienda che me li dà, quindi non facciamo nulla. Qualcun altro ci credeva e quindi riuscivamo a vendere magari 1-2 stufe. Ma questo è stato veramente un periodo lungo, 9 anni, e difficilissimo, come dicevo appunto, perché non avendo qualcosa di più interessante dei nostri competitors, non riuscivamo a imporci e a far conoscere appunto il nostro sistema. Dopo anni di sacrifici e di incertezze, per Clover arriva il momento della svolta. Succede nel 1999. A segnare il cambio di passo è l'intuizione applicata a un sistema innovativo, come ci racconta ancora Mario Muraro, amministratore delegato dell'azienda. La svolta quando realizziamo un sistema chiamato SicuroTop, brevettato da noi, realizzato, ideato e brevettato da noi, che permette l'installazione di questi prodotti appunto da collegare all'impianto di riscaldamento, queste caldaie, questi termocamini, queste termocucine, permette l'installazione su impianti a circuito chiuso senza bisogno del vaso aperto. Adesso non entro nei tecnicismi, ma comunque questo sistema ci ha permesso di entrare da tutti i rivenditori, perché tutti erano curiosi di capire come funzionava, cos'era questo SicuroTop. E così dal 2000 inizia una fase felice per noi, perché finalmente dopo 10 anni di duri sacrifici e lavoro cominciamo ad essere apprezzati dai rivenditori, cominciamo a essere appunto considerati dai rivenditori. E questa fase va avanti praticamente fino al 2013, perché in questi anni, in questi 13 anni, noi abbiamo costruito un'azienda fondata proprio sul SicuroTop, su questo brevetto che ci ha permesso di entrare da tutti i rivenditori, ci ha dato visibilità a livello nazionale e anche europeo. A partire però dal 2013, l'onda lunga dell'intuizione applicata al brevetto si esaurisce e lo sviluppo di Clover subisce una battuta d'arresto. In particolare, la concorrenza si fa sempre più agguerrita e competitiva, impadronendosi via via di quote di mercato, grazie anche alla maggiore capacità di sfruttare le chance offerte dalla tecnologia e dalla ricerca. Ma, come già era accaduto in passato, nella storia di Clover arriva l'occasione per ripartire spediti, grazie a un gioco di squadra e di famiglia che porta a risultati forse impensabili. La seconda svolta, se vogliamo chiamarla così, avviene appunto verso la fine, metà fine 2016, quando decidiamo di rivoluzionare nuovamente l'azienda, perché a quel punto eravamo conosciuti bene o male a livello europeo in maniera importante, però considerati azienda interessante con prodotti di qualità, ma prodotti di nicchia, non diciamo da fare i grandi numeri. Quindi a metà del 2016 decidiamo di cambiare marcia, di investire parecchio in ricerca e sviluppo, di ampliare l'azienda, di raddoppiare la superficie produttiva, di potenziare la rete commerciale, di assumere ingegneri, progettisti e tecnici di laboratorio per mettere in campo una forza nuova e per mettere in campo idee e prodotti che potessero essere interessanti. E devo dire la verità che dal 2017 a fine anno scorso, 2019 compreso, abbiamo avuto un incremento impressionante. Credo che poche aziende del nostro settore siano cresciute così tanto, e se posso citare l'incremento, abbiamo fatto in 3 anni una media di crescita del 40%, con un fatturato a fine 2019 di 20 milioni e mezzo. Per noi è molto importante, perché quando abbiamo deciso di cambiare marcia nel 2016 facevamo 7 milioni e mezzo. Siamo riusciti a essere oggi tra le prime aziende a livello italiano, perché poi le eccellenze nel nostro settore sono tutte in Italia, quindi i nostri competitors sono tutte aziende italiane. E questo ci dà fiducia per il futuro, perché comunque oggi abbiamo una tecnologia, abbiamo brevetti sulla combustione, brevetti sulla gestione della combustione. Caldaie, caminetti, cucine, stufe rappresentano un mercato vivace che, come abbiamo sentito, vede i marchi italiani primeggiare per qualità dei materiali, design, originalità e funzionalità. Mario Muraro, amministratore delegato di Clover, rivendica il legame stretto con il territorio e traccia le prospettive per il settore e per una filiera che in Italia, in termini di fatturato complessivo, vale 4 miliardi di euro e impiega oltre 70.000 addetti. Il futuro lo vedo interessante per il nostro settore, lo vedo in crescita. Siamo in tanti a produrre questi prodotti, quindi la concorrenza è agguerrita, però io sono fiducioso. Sono fiducioso perché il nostro settore comunque sta crescendo anno dopo anno, l'interesse in Italia e anche all'estero, soprattutto all'estero, è in continua crescita, ci sono incentivi a livello appunto governativo, a livello di paesi europei, proprio per cambiare la vecchia stufa e acquistarne una di nuova con emissioni entro i limiti imposti dalle normative. E quindi non sono pessimista per il futuro, anzi credo che sarà positivo. Tengo a dirlo, noi produciamo tutto in Italia, tutto qui a San Bonifacio in provincia di Verona. Per noi è un valore aggiunto e a volte va un po' a discapito del prezzo, però la produzione a me piace mantenerla in Italia e la voglio mantenere in Italia, perché dobbiamo far lavorare i nostri cittadini, e quindi io sono per mantenere tutto qua, anzi tutto a Verona, tutto in Veneto. Avete ascoltato Voci d'Impresa,